Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, ultima puntata di Focus Economia della settimana e chiaramente puntata prenatalizia e fin qui poche notizie. Di cosa ci occuperemo oggi? Con le borse, non tutte devo dire, ma le principali, quasi tutte le principali chiuse, mi riferisco non solo non tanto a Milano ma anche a Francoforte e a Madrid, chiusa anche Wall Street, mentre Londra funziona a metà giornata, quindi praticamente è già chiusa, ma da Londra arriva una notizia interessante perché per la prima volta da giugno la borsa di Londra chiude sopra i 6.000 punti e questo fa il paio con quanto avvenuto tre giorni fa a Wall Street, dove lo Standard & Poor's, cioè l'indice principale delle società più grosse americane, è tornato ai livelli pre crack Lehman Brothers, pre ottobre 2008. Di questo parleremo perché approfittando delle borse chiuse faremo anche un aggiornamento su quanto gli indici, spesso voi dite le borse sono scollegate dalla realtà, devo dire che a guardare come stanno chiudendo le borse principali del mondo, in particolare quelle europee e americane, questa volta non è vero, ossia, ne parleremo più avanti, l'andamento delle borse quest'anno ha rispecchiato in maniera abbastanza fedele quello che è stato l'andamento delle economie di questi paesi, quindi Milano meno 10, ma Parigi meno 2, Francoforte più 17 da inizio anno. Per cui una volta tanto non si può dire che il mercato finanziario rappresentato dai titoli quotati non corrisponda a quella che è l'economia reale. Le corrispondenze e i vincoli sono abbastanza stringenti. Parleremo in apertura però di un caso di successo, insomma è la vigilia di Natale, non vorremmo, il nostro gufo è anche lui pronto a festeggiare col cappello e il panettone, e quindi oggi è in sciopero, vorremmo tenerlo in sciopero, in festività, e quindi racconteremo, come ogni tanto facciamo, un caso di impresa di successo in un settore difficilissimo in cui l'Italia non era praticamente presente, e adesso lo scoprirete, un caso di successo mondiale, questo non tanto per riconoscerla pur corretta e oggettiva capacità dell'imprenditore, ma per dare qualche consiglio a decine o a centinaia di altri imprenditori in ascolto che si chiedono, visto che nulla sarà più come prima, è uno slogan che spesso usiamo, cosa fare, come combattere la crisi, come affrontare i nuovi mercati di sbocco che non sono più l'Europa, non sono più o sono molto meno gli Stati Uniti, ma sono tutti distanti, Cina, India, Brasile, Cile, e via così. Per cui qualche lezione per gli imprenditori in ascolto arriverà, oltre che celebrare un successo italiano, e quindi parleremo di questo e poi un'analisi dell'andamento dei mercati e di come vanno anche le nostre imprese. Infine, come ricordava il nostro GR, un approfondimento anche sulla situazione a Vicenza, della situazione del Bacchiglione e degli altri fiumi, vi aggiorneranno i nostri GR, però di nuovo forte preoccupazione nel mondo delle imprese in attesa che arrivino compiutamente i soldi, e soprattutto vorremmo portare il punto anche sulla prevenzione, cioè finita la festa, speriamo che non venga gabbato il santo, nel senso che se poi non si sistema l'assetto idrogeologico del territorio alla prossima pioggia siamo punto e a capo, e i danni già hanno superato il miliardo, non vorremmo rivederli. 349-238-6666 per i vostri sms, mandateli oggi così ci sentiamo io, Barbara Bianchi, il tecnico, meno soli in questa puntata semifestiva per molta Italia, e appunto ci sentiamo anche in compagnia. Se non li vediamo vuol dire che ce la stiamo un po' raccontando le notizie in breve. Il petrolio è calato a $91.40 in Asia, il Brent però a Londra è sopra i $94 al barile, ancora rialzi alla pompa invece, quindi di benzina stiamo parlando, €1.47 la verde, e il diesel o gasolio, come alcuni ci correggono ogni volta, il diesel è il motore, comunque a €1.35. E le associazioni dei consumatori hanno fatto il calcolo, dal 1 dicembre 4 euro in più a pieno per automobilista, questo stanno costando i rincari. Non posso tornare sulla polemica, e purtroppo ci sono alcune scadenze classiche, no? Cioè c'è il Ferragosto, c'è la Pasqua, c'è il Natale, ci sono i rincari della benzina, ogni volta giustificatissimi dai produttori, quando ci sono il ponte, quando c'è il ponte di Sant'Ambrogio, quando c'è il ponte, quando ci sono gli spostamenti di Natale, quando c'è Ferragosto, ormai ci siamo abituati, ce li aspettiamo. Bisognerebbe fare il pieno qualche giorno prima. Nuove tensioni invece, ci spostiamo alla Grecia, sul debito greco, perché i credit default swaps, che poi sono queste polizze assicurative che uno può sottoscrivere quando compra debito di un paese, in questo caso greco, si cautela sottoscrivendo una polizza. Ecco, quanto è il premio di questa polizza ti dice, come anche nella vita assicurativa normale, quanto è a rischio il paese. Ebbene, i premi pagati per assicurarsi sul rischio di default, di fallimento dello Stato greco, sono schizzati quasi vicinissimi al record di marzo-aprile, 1000 punti quelli quinquennali, e anche altri debiti, nel caso specifico quello portoghese, sono aumentati. In questo caso la differenza tra quanto rendono le obbligazioni portoghesi rispetto a quanto rendono le obbligazioni tedesche, le obbligazioni portoghesi sono arrivate a 628 punti, cioè il 6,2% di differenza come rendimento. Livelli elevatissimi, simili a quelli portoghesi per l'Irlanda, 628 la Grecia, cioè 6,2%, la Grecia, un'obbligazione greca rende, se rende l'1% quella tedesca, quella greca rende oltre il 10%, cioè la differenza è 9,37%, Spagna 2,5%, Italia 1,7%. Allora, ancora, Gran Bretagna, iniziano oggi i saldi su internet, poi arriverà l'austerity. Perché oggi? Perché con la tempesta di neve e di freddo molti inglesi non sono riusciti a fare shopping. Pensate che su internet il prezzo dei vari cataloghi offerti, i prezzi sono più bassi anche del 75%, basta acquistare online. E tra l'altro un'ottima occasione questa per gli ultimi regali prima dell'aumento dell'IVA, perché dal 1 gennaio l'IVA inglese passerà dal 17,5% al 20%. E questa era quasi l'ultima notizia. Sì, ci sono le dichiarazioni del presidente Berlusconi anche oggi in un audiomessaggio, le tratteremo più avanti perché vorrei partire con, se ce la facciamo, se no le lasciamo al GR. Una cosa però riguarda il Natale, questa la voglio invece raccontare. Intanto grazie a molti ascoltatori, insomma, che ci manifestano la loro solidarietà. Stavo scherzando, non ci sentiamo così soli, ma buon lavoro a tutti quelli che stanno lavorando il 24 di dicembre e che lavoreranno anche nei giorni prossimi. Dicevo, l'Osservatorio di Milano, che è un osservatorio importante per capire le spese e i consumi delle famiglie, ha stimato che quest'anno l'85% delle famiglie italiane trascorrerà il Natale nella propria abitazione con familiari e parenti. Tra l'altro, nei capoluoghi più grandi del centro-sud si arriverà al 95%. A Milano la media sarà dell'85%, e comunque chi farà una vacanza vera e propria sono i ceti alti, quelli arricchiti, leggo testualmente, dalla crisi, e che hanno la possibilità di spendere dai 5.000 ai 20.000 euro per fare una vacanza. Invece le famiglie italiane spenderanno in media il 15% in meno rispetto all'anno scorso. Sul fatto che, oltre che la crisi, soprattutto l'ingresso dell'euro abbia operato una redistribuzione netta della ricchezza, abbiamo detto molte volte, il 43% della ricchezza, fonte Banca Italia, di questo paese è in mano al 10%, e c'è stato obiettivamente un diverso potere d'acquisto tra redditi del lavoro dipendente e reddito del lavoro autonomo. Anche qui la fonte non è politica, ma è la Banca d'Italia. Addirittura c'è chi ci sta ascoltando dal treno. Complimenti. E allora del Veneto parliamo tra un attimo, e anche delle dichiarazioni del presidente Berlusconi. Già ieri molto abbiamo raccontato la conferenza stampa. Buon lavoro anche ai tassisti. Adesso ragazzi, però fatemi fare il programma, a tutti i tassisti d'Italia. Partiamo con una puntata che inizia con una cosa positiva, ripeto, il gufo è amabilmente anche il suo cenone di gufi natalizi, e allora occupiamoci di raccontare, cerchiamo di raccontare una storia di successo del nostro Made in Italy. Se tu lo vuoi, tu lo sarai, una di noi, Wings, la tua mano nella mia, più forza ci darà, uno sguardo e vinceremo insieme, Wings. No, non siamo impazziti, né abbiamo cambiato base per il programma. Chi ha figlie, figli, ma soprattutto figli, avrà già riconosciuto di cosa stiamo parlando. Sono le cinque fattine delle Wings. Allora, non saranno delle basi, diciamo, migliori di questo programma, vista la vostra abitudine, però, attenzione, perché parliamo di Wings? Perché parliamo di fare impresa, di come reagire alla crisi uscendo delle volte anche dal manifatturiero puro, perché è Natale, vorremmo chiudere questa puntata, diciamo, di vigilia in maniera anche un po' positiva, con una nota di ottimismo, e perché stiamo raccontando la storia di un successo completamente italiano, totalmente made in Italy. Se tu lo vuoi, tu lo sarai, una di noi, Wings, la tua mano nella... Allora, le Wings sono un successo mondiale, sono trasmesse nel 2004, nasce la serie televisiva trasmessa in 150 emittenti al mondo, il primo cartone italiano a essere venduto negli Stati Uniti, 2 miliardi di euro il giro d'affari che ruota attorno soprattutto al franchising, cioè a tutti i prodotti che vengono fatti attorno a una serie televisiva, in questo caso cartoni animati, 600 licenziatari, nel 2007 il primo lungometraggio, oltre 1 milione di spettatori in Italia e 4 milioni all'estero, nel 2010 il secondo lungometraggio. E adesso, a parte gli spettacoli live, si sta anche per inaugurare nell'aprile 2011 alle porte di Roma il Rainbow Magic Land, il parco divertimenti a tema, no? 600.000 metri quadri di superficie, 2.000 occupati. Se tu lo vuoi, tu lo sarai, una di noi. Perché parliamo delle Wings? Perché la casa che le produce, la casa di animazione, è totalmente italiana, al di là del nome Rainbow, fondata a metà degli anni 90 da Eugenio Straffi a Loreto, provincia di Ancona, fattura 52 milioni di euro e da più di 200 dipendenti, oltre a tutto un network di freelance e professionisti dell'animazione. Siamo in collegamento con il fondatore Eugenio Straffi, che è anche amministratore delegato di Rainbow. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, speriamo un po' anche di alleggerire il tema, restando molto molto molto seri, perché insomma il vostro è un successo mondiale, ripeto, come sa qualunque genitore che ha una figlia o zio che ha nipoti femmine. Siete entrati in un mercato che sembrava completamente precluso agli italiani, e mi riferisco ai cartoni animati. Giappone e America dominano. È vero che venite da una terra come quella di Ancona, della provincia marchigiana, in cui c'è una lunga tradizione di industria del giocattolo, però io vi faccio una domanda molto semplice: come avete fatto e come vi è venuto in mente di entrare in un settore che sembra precluso, l'entertainment, alla nostra industria? Beh, semplicemente perché alla base c'è il fatto che a me piaceva fare questo lavoro, questo mestiere, e quindi credo che poi, come in altre storie di successo, alla base, se c'è la passione dell'imprenditore o di chi vuol fare qualcosa, e poi magari la capacità e quello che sia, insomma tutti gli ingredienti che conosciamo, coraggio eccetera, magari si riescono anche a compiere delle imprese che sulla carta sono un po' difficili, se non a volte proibitive. E sicuramente è stato difficilissimo, però a monte c'è sempre la volontà, la visione, il sogno di voler fare qualcosa, perché se ci impegniamo in qualcosa che non ci piace, difficilmente riusciamo a portarlo a risultati di successo. Allora, per quello che riguarda il settore, voglio dire, noi spesso stiamo ragionando in questo programma di come l'impresa italiana, pur restando in buona parte manifatturiera, debba anche reinventarsi. La crisi, si dice, nulla sarà più come prima. Nulla tornerà più come prima, per cui è chiaro, nessuno sta dicendo che, lo dico anche per rispondere a alcuni sms al 349-238-6666, dobbiamo uscire dalla manifattura classica del Made in Italy, però attenzione, perché reinventarsi, avere una concorrenza come quella cinese e indiana, vuol dire spostarsi anche su altri mondi, e ci interessava questo esempio assolutamente virtuoso. Come si fa? Lei ha detto è stato difficile, ma c'era molta passione. Immaginiamo che la passione ce l'abbiano anche molti nostri ascoltatori e imprenditori. Qual è la difficoltà più grossa che lei ha trovato nell'entrare in un settore in cui il Made in Italy non è noto? Cioè, avesse prodotto borsette, scarpe, abbigliamento, certo, cibo, già uno viaggia, certo, fortunatamente con un po' di vantaggio. Voi invece, perché voi riuscite a produrre tra l'altro tutto, cioè tutte le fasi della produzione di un cartone animato, dalla pre-produzione alla post-produzione, no? Certo, ma diciamo che secondo me, ecco, alla base ci deve essere chiaramente anche la qualità del prodotto, che va studiato proprio partendo dall'handicap, nel nostro caso, di una non credibilità dei mercati. Quindi a monte, io quando mi sono messo con i miei collaboratori a studiare dei progetti, abbiamo pensato sicuramente a mercato internazionale, quindi non a storie che interessassero solo i bambini italiani o della tradizione, diciamo, italiana, ma poi anche la visualizzazione, la realizzazione, il ritmo, tutte le componenti che formano una storia andavano orientate verso appunto il mercato e soprattutto verso un'innovazione rispetto a quello che c'era in quel momento sul mercato. Ecco, queste un po' le considerazioni da fare a monte. Poi una volta che si è convinti di avere qualcosa di veramente nuovo, originale, di un certo valore, e chiaramente arriva la fase più dura, quella di proporlo sul mercato, e lì dove non c'è comunque credibilità bisogna, ecco, che sopraggiungano delle doti ancora maggiori, innate, di persuasione, di trasmettere questa veramente differenza, questa qualità del prodotto, perché se si riesce a far breccia poi, e qualcuno, come è stato nel caso nostro, ci ha dato fiducia, ha messo in onda, ha comprato questi nostri cartoni nel 97, 96, 97 in poi, perché ci abbiamo messo un paio di anni a formare i primi prodotti, è chiaro che poi, grazie a Dio, ecco, ci abbiamo avuto i risultati degli ascolti che ci hanno dato ragione, che il prodotto era ben studiato, era innovativo, piaceva comunque ai bambini di tante parti diverse del mondo, e pian piano abbiamo fatto breccia in questo pregiudizio che l'Italia non aveva capacità produttive nell'intrattenimento, ecco. Beh, c'è una lezione importantissima che sta emergendo tra le righe, lo dico io, ed è quella della capacità di capire cosa vogliono gli altri mercati. Attenzione, una delle critiche più forti che sentiamo sul fatto che i nostri imprenditori vadano in Cina è che spesso vanno pensando di poter vendere semplicemente il prodotto che fanno per il mercato italiano e europeo. Cioè, come dire, tanto i Made in Italy, noi siamo i migliori, sappiamo fare il design, abbiamo lo stile, abbiamo il gusto, tutto vero. Però un conto è vendere a cittadini europei, clienti europei, certo, o anche europeizzati come molti americani, un conto è vendere ai cinesi. Ecco, delle volte, lo dico con massimo rispetto, un po' più di modestia, andare in Cina o in India e capire che cosa vogliono i cinesi, ho capito, magari vanno dei colori o delle forme che da noi non andrebbero mai, però è quello che vogliono loro e va prodotto quello che vogliono i cinesi, non quello che gli italiani vorrebbero che i cinesi volessero. Sì, sono d'accordo, questo è fondamentale. Tenere l'occhio sul nostro pubblico e sui vari paesi, che comunque il prodotto va localizzato e va reso comprensibile e fruibile. E poi, come dicevo, secondo me queste sono le due, chiaramente il prodotto che ci deve essere, perché senza prodotto non si fa nulla. E poi però l'altra cosa che secondo me noi trascuriamo un po' rispetto a americani, ma anche a francesi e inglesi, è la capacità comunque di venderlo questo prodotto. Fino a qualche anno fa avevamo un problema anche linguistico, perché veramente parlavano, insomma, poco l'inglese, i nostri anche commerciali, eccetera. Ma poi in generale diciamo che siamo un pochettino dietro rispetto a quello che fanno gli altri sul marketing di un prodotto e sulla vendita proprio vera e propria, perché non scordiamoci mai, io questo mi piace dirlo, visto che lei parla poi a altri imprenditori, quindi se posso dare la mia piccola piacere. No, deve darla. Quando mi invitano all'università alcuni a fare, comunque la vendita è la fase più importante, perché tutto, qualunque cosa si faccia, poi deve essere venduto. Qualunque cosa noi facciamo nella vita deve essere venduto, ma venduto non solo il prodotto. Per quanto riguarda noi che facciamo contenuto, va venduto anche il contenuto, il che significa che i nostri cartoni devono sedurre il pubblico che li guarda, o i nostri film, perché se non riusciamo a vendergli un'emozione, un sogno, un'immaginazione, un'identificazione con gli stessi personaggi o quello che sia, noi sicuramente non riusciamo ad avere successo. Allora, una domanda e poi torno al tema. Per ogni euro di, diciamo, di incasso dei delle serie delle Winx, delle Fatine, quanto guadagna il merchandising? Cioè, qual è il rapporto? Un euro, diciamo, di produzione per... Cioè, un euro di costo? Cosa vuole? No, io voglio capire il rapporto che c'è tra quello che incassate dal film dalla serie televisiva e quello che incassate... No, ma il rapporto proprio, è quello che invece è il valore... 30% dalla TV o dai biglietti del cinema, 30%, 35%, insomma, 30%, il resto tutto da royalties derivate da prodotti di merchandising. Quindi lei ci sta dicendo che per 30 euro incassati dai diritti cinematografici o televisivi ce ne sono altri 70, cioè sì, due volte, sì, più di due volte. Per tutto quello che è merchandising, le bambole, le t-shirt, adesso non certo. Per un prodotto chiaramente di successo. Sì, certo. No, e lì si arriva ai 2 miliardi di euro, che è il giro d'affari del merchandising di queste Fatine, giusto? Il merchandising a livello di 2 miliardi di vendite euro. Ha raggiunto i 2 miliardi di euro in tutto il mondo, immagino. Sì, sì. Torniamo al tema che più mi interessava, cioè a lei come testimonianza, come altri imprenditori hanno fatto in questo programma. Lei ha detto una cosa importante: noi abbiamo capito che non potevamo produrre un cartone animato solo per il mercato italiano. Domanda: come si fa a capire che 5 Fatine con vari poteri magici piaceranno agli americani, ai francesi, agli inglesi, anche ai sudamericani? Beh, non è che diciamo abbiamo la bacchetta magica, però noi sicuramente... Voi no, ma le Fatine sì. Le Fatine sì, però sicuramente, ecco, un'altra cosa che mi ha sempre caratterizzato fin dall'inizio, e prima spendevamo meno perché avevamo meno, ora spendiamo veramente molto, sono le informazioni di mercato e le analisi, i dati che noi compriamo da varie società, e poi facciamo ovviamente, dopo aver creato dei piccoli test del focus group con bambini in tutto il mondo, quindi noi prima compriamo e cerchiamo di capire come passano il tempo i bambini o i ragazzini che ci interessa, sia nel nostro pubblico, cosa gli piace, cosa non piace in generale, e cosa guardano, eccetera eccetera. Insomma, abbiamo un sacco di ricerche in merito dall'America, dall'Europa e dall'Asia, e poi dopodiché cominciamo a fare degli esperimenti di nostri prodotti, e questi prodotti li testiamo sui vari mercati. Poi, una volta che riceviamo un feedback abbastanza consistente, sì, andiamo a fare o degli aggiustamenti oppure decidiamo, andiamo avanti così, che siamo sulla strada buona. Per curiosità, nel vostro fatturato quanto spendete per questa raccolta di informazioni, cioè come percentuale? Cioè, è un investimento importante, sarà intorno 3% forse la ricerca di informazioni. Non è poco. Sì, no, non è poco. No, su 52 milioni di euro non è poco quello che spendete. Più di 1,5 milioni sicuro all'anno. Però 1,5 milioni di euro in quella che si chiamerebbe in altri settori ricerca e sviluppo. Allora. Beh, no, dopo ne facciamo altre, dico. Questo è solo proprio. Quella è solo ricerca, diciamo. Ricerca sviluppo, pura, non sviluppo. Ha ragione lei. Dottor Straffi, per concludere, siamo appunto alla vigilia di Natale, adesso molti di quelli che hanno comprato i prodotti di The Winx, delle Fatine, la ringrazieranno per aver alleggerito il loro portafoglio, ma un consiglio agli imprenditori: ne abbiamo capito, andare in giro per i mercati, raccogliere informazioni, smetterla con gli stereotipi, i cinesi vanno in bicicletta, gli indiani mangiano piccanti, tutte queste cose che sentiamo dire, in realtà andate a conoscere i mercati e scoprite cose molto diverse, e questo vale anche per il Brasile oltre che per il Cile e altri mercati emergenti. Pensare in chiave global, anche se si lavora in un luogo che è molto local. Ha un altro invito, auspicio per il 2011, che serve in questo momento ai suoi colleghi imprenditori per reggere il colpo, per cambiare senza soccombere? Ma, io ecco, credo, come dicevo prima, molto nell'originalità di un'idea che si va, cioè è inutile cercare di fare tutte le stesse cose oppure appena un pochettino meglio oppure un pochettino più a buon mercato. Non è facile, però secondo me bisogna comunque ogni giorno inventarsi qualcosa, perché è molto più difficile andare a competere con un prodotto o con un tipo di concetto che comunque già sul mercato e comunque già ce l'hanno, ogni paese ha il suo tipo, eccetera. Sì, scrivono alcuni ascoltatori, voi non avete il timore della concorrenza che vi copia i prodotti. In realtà uno potrebbe anche copiare poi la vostra idea, no? Ci avranno provato, immagino. Noi ci hanno copiato da quando sono uscite le Wings, abbiamo avuto almeno una quindicina di prodotti da simili, del mondo, dall'America, ma anche di produttori importanti, non solo produttori indipendenti minori, e quindi tentativi di imitazioni ne abbiamo avuti tantissimi. Il problema è che se uno ha il prodotto più forte e che è uscito prima, normalmente è un vantaggio competitivo. Quindi attenzione che le idee non è così facile copiarle, i prodotti sì, ma le idee no. Straffi, in bocca al lupo a lei, a tutti i 200 dipendenti, tutti quelli che lavorano nel settore, e ne approfitto anche per già fare gli auguri di buon Natale a tutti gli imprenditori in ascolto. In bocca al lupo veramente per il 2011, però non mollate il colpo, si può anche cambiare modo di produzione, nulla sarà più come prima, ma non è detto che sia tutto peggiore. Grazie al mister legato della Rainbow, nonché ideatore delle Wings, Iginio Straffi. Grazie a voi e un augurio a tutti per un sereno Natale, ma soprattutto un 2011 migliore di questo 2010. Ci mancherebbe, grazie a lei. Arrivederci. Allora, vedo che al 349-238-6666, insomma, questa storia di impresa, di successo di impresa delle Wings è piaciuta. C'è poi chi dice hanno una grossa responsabilità in come si vestono poi le ragazzine nel crollo dei valori morali. Oddio, adesso tutto si può dire, però mi sembra che se andiamo a ragionare su chi ha responsabilità sui valori, ci siano esempi un po' più alti delle Wings che dovrebbero assumersi delle responsabilità. Non voglio buttarla in politica, ma non diamo la colpa alle fatine se i modelli dei vostri figli o dei nostri figli sono sbagliati. Giovanni Tamburi, presidente della Tamburi, della TIP, Quattro in Bosta Investment Bank, buonasera. Buonasera. Allora, dico io, dove l'ho trovato un programma che passa dalle fatine al private banking, al private equity in un modo del genere? Tamburi, anche un commento lo vorrei sull'esperienza di successo, visto che quello che fa un private equity mette i soldi per comprarsi quote di minoranza, delle volte anche di maggioranza, in aziende, e voi avete tantissime partecipazioni. Un commento su questa storia di successo lo vorrei. Le chiedo solo qualche minuto di attesa perché abbiamo il meteo e la pubblicità, poi invece ragioniamo di quello che sta capitando al resto delle imprese, una volta dicemmo come battuta sommersi e salvati, e quello che sta capitando ai mercati, perché ho detto all'inizio, in realtà se guardiamo il 2010 come indice di borsa, questa volta i mercati sono stati abbastanza collegati a quello che è stato l'andamento reale dell'economia dei paesi che rappresentano. Tra qualche minuto, 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:38, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa puntata della Vigilia di Natale. Allora, Giovanni Tamburi, partendo proprio da quello che raccontava il fondatore delle Wings, come consiglio ai colleghi imprenditori, e unendolo a quello che lei vede, visto che di lavoro lei raccoglie soldi e li investe in società, in aziende, in gruppi, non fa speculazione finanziaria, lo dico a chi scrive, è in ascolto, al 349-238-6666... Che fotografia si può tracciare delle nostre imprese, soprattutto quelle che hanno la capacità di andare all'estero? Ma il quadro è ottimo, nel senso che nel 2010 si è dimostrato, come diceva lei prima, che la selezione fra le varie aziende, quelle che andavano meglio, quelle internazionali, quelle leader di mercato e le altre che invece faticavano, è stata molto forte. Basta guardare le performance borsistiche delle aziende italiane, ma leader a livello internazionale, tutte hanno avuto performance molto molto buone, anche in un anno che, come lei accennava prima, non è stato certamente un anno di soddisfazione per il listino inteso come tale. Ecco, io usavo la frase di un famosissimo libro di Primo Levi, Sommersi e salvati, perché la sensazione che noi abbiamo è che nel 2009 la crisi assomigliasse un po' quando c'è il ciclismo, no? Al gruppone, tutti assieme a arrancare in salita. Nel 2010 invece è iniziata per alcuni casi una volata per alcuni, cioè il gruppone si è sfaldato, alcuni sono rimasti indietro e un gruppo di testa è partito. È un'immagine che la convince? Perfettamente. Ecco, e quali, è difficile dirlo in maniera complessiva, ma le caratteristiche di chi invece ha preso il là, che ha accelerato il passo, lei se dovesse identificare, cioè quando va a scegliere un'azienda, che voi investite in qualunque settore, per cui siete trasversali, quali sono le caratteristiche che lei va a guardare sul 2010 soprattutto? Ma la prima caratteristica è la leadership di settore, cioè noi investiamo soltanto in aziende leader dei rispettivi mercati. La seconda caratteristica è proprio l'internazionalizzazione, cioè la capacità di un'impresa, seppur col cervello, con la sede in Italia, di andare all'estero. La terza caratteristica è che ci sia un approccio imprenditoriale, e per cui un approccio di chi la gestisce, fondato sullo sviluppo, votato allo sviluppo e alla crescita, e non a ripararsi dai colpi che può prendere dal mercato. Voi tra l'altro partecipate, se non ricordo male, avete il 6%, però mi corregga Tamburi, avete il 6% di Prismian, l'ex Pirelli Cavi. Prismian ha lanciato un'offerta importante per un gruppo concorrente, che è Draco, ne abbiamo parlato in trasmissione, è arrivata una controfferta cinese. Questo secondo lei vuol dire che, oltre che essere uno stereotipo, i cinesi che producono solo le magliette, le scarpe, che fanno fare in Vietnam ormai, e cose di basso prezzo perché stanno producendo alta tecnologia e anche qualità, è uno stereotipo anche pensare che i cinesi siano solo lì ad aspettare le nostre imprese e eventualmente a copiarle? Mi sembra che qualche capitale cinese, oltre che per salvare il debito del Portogallo e dei paesi europei, stia arrivando anche sulle aziende europee. Tamburi. Ma non c'è dubbio, cioè, chiaramente non ci aspettavamo questa offerta cinese per il gruppo Draca, tant'è che l'offerta che è stata fatta da Prismian era concordata con il management di Draca e ritenevamo che fosse la giusta controfferta rispetto a un'altra offerta precedente che era ostile, contrariamente a quella di Prismian che invece è amichevole, è stata concordata con il management di Draca. Questa operazione, questa entrata dei cinesi così inaspettata, secondo me apre una nuova parentesi e comincia a dire: i capitali dei cinesi che prima erano investiti in titoli dello Stato americano, in titoli anche in euro, eccetera, cominciano ad andare sull'equity delle aziende leader a livello mondiale, e cosa di meglio di investire in aziende che sono nel settore dei cavi per l'energia e per le telecomunicazioni, che sono prodotti certamente utilissimi per tutti i paesi in via di sviluppo e pertanto possa essere una piattaforma particolarmente interessante per fare un investimento che abbia un significato geopolitico, strategico e anche industriale. Allora, lo scorso 24 novembre Tamburi, Carlo De Benedetti, c'era un'OPA obbligatoria, ha raggiunto l'accordo con lei per rilevare le sue quote, le quote della TIP in management capitali, erano il 16,87%, ma questa è storia. Io vorrei capire, con questi soldi che ne farà? Continuiamo a investire in aziende leader, cioè noi abbiamo solo negli ultimi mesi speso circa 150 milioni di euro, che probabilmente per il settore del merchant banking, o lo chiami private equity italiano, è il più grande investimento dell'anno. Abbiamo speso molti soldi per Prismian, abbiamo speso molti soldi per Amplifon, altro leader mondiale nel settore degli apparecchi per l'udito, settore in crescita, settore molto importante. Pensi che Amplifon, un'azienda milanese, ha 6.000 negozi nel mondo per gli apparecchi per l'udito. Abbiamo aumentato la partecipazione della Bolzoni, numero 2 del mondo nel settore dei carrelli elevatori, per cui noi con i soldi ricavati anche dall'operazione di management capitali pensiamo nel corso del 2011 di continuare ad investire molto nei settori che ci interessano, nelle aziende, come ho detto prima, leader internazionali con una grande capacità di cavalcare questa crescita che sta cominciando a essere palpabile. Ecco, appunto, il gruppone che si stacca. Ho apprezzato che non abbia raccolto la mia pessima battuta su Amplifon. La regia invece ride. Questo è molto importante, perché chi va poi a fare, a scegliere, a selezionare, si rende conto, e ce lo sta raccontando lei, Tamburi, che le cose obiettivamente si sono mosse rispetto al 2009. Certo, bisogna capire poi quanta parte è il gruppone che si è staccato per la salita, chi è rimasto, quanti sono quelli che sono rimasti indietro. Alcuni purtroppo non ce la faranno, ma insomma l'importante è che arrivino al traguardo il maggior numero di imprese possibili. Questo ragionamento vale anche sui mercati azionari, qui passiamo alla borsa, Tamburi, cioè la scelta, lo stock picking, come si chiama, come dicono quelli che hanno studiato, è stato anche il filo rosso del 2010 in borsa? Assolutamente sì, basta guardare tre indici. Il DAX, cioè l'indice tedesco, ieri ha guadagnato all'inizio dell'anno il 16,7%, l'Italia, il FTSE MIB, ha perso l'11,8%. Questo è già un indice di paesi nell'ambito della vecchia Europa che vanno meglio e paesi che vanno peggio. E come lei accennava all'inizio, effettivamente il mercato si è cominciato ad accorgere delle differenze fra singole aziende, fra singoli paesi, e pertanto fa veramente selezione. E devo dire, Parigi infatti ha perso un meno 2, che tutto sommato rispecchia anche lì una Francia che è messa meglio dell'Italia, peggio della Germania, quindi insomma le borse obiettivamente hanno risposto all'andamento macroeconomico. Tamburi, lei è stato nostro ospite altre volte in questi anni, non l'ho mai sentita così ottimista. Allora mi dica due cose: è perché la vigilia, sta pensando alla cena, oppure perché lei insomma anni passati mise in guardia prima della crisi, attenzione il mercato è in bolla, c'è troppa liquidità, i prezzi non reggono sui mercati azionari, e poi lei ed altri avete avuto ragione. Che succede? È l'effetto vigilia? L'effetto cenone? Fra un po'? Ma no, guardi, mi conosce troppo bene per sapere che non credo di essere una persona che si fa eccitare né dai cenoni né si fa deprimere dai momenti. Come lei ha citato, mi fa piacere quando venivo considerato tra le Cassandre, i pessimisti, eccetera, anni fa. Purtroppo, e sottolineo purtroppo, avevo ragione, ma perché mi accorgevo prima, vivendo a contatto con le imprese, questo è un po' il punto, vivendo a contatto con le imprese, uno capisce le cose prima dei giornali, prima degli stati, prima dei governi, per cui questo era il feeling. Oggi il feeling perché è positivo? Basta guardare le aziende leader e vedere cosa hanno fatto sul mercato. Abbiamo detto che alcuni paesi hanno sovraperformato gli indici e altri sottoperformato. Parliamo di aziende. Delle aziende buone, con buone caratteristiche, non per parlare delle nostre, ma comunque delle aziende italiane leader, le famose multinazionali tascabili, ma anche la Fiat, per fare un nome, la Fiat è andata benissimo nel 2010. Multinazionali tascabili come Interpump, Datalogic, la stessa Prysmian e altre hanno fatto dati positivi nell'anno molto pesanti. Nel nostro piccolo, anche noi con la nostra società, lei ha ricordato, siamo quotati in borsa, abbiamo fatto, tenuto conto dei dividendi distribuiti, più del 20%, il mercato ha fatto meno 12%, per cui questo vuol dire che la ripresa forte ancora non c'è stata, e forse anche nel 2011 ripresa forte, corale, unidirezionale potrà non esserci, però le aziende buone vanno bene, chi ha investito in aziende buone sta avendo soddisfazioni, e ho l'impressione che se siamo coraggiosi e bravi anche nel 2011 per investire in aziende giuste, avremo ancor più nel 2011 soddisfazioni rispetto a quelle che daranno i mercati in generale. Oh, e con questo auspicio io le auguro buon Natale, e a questo punto, visto che non penso ci sentiremo prima, anche buon anno. Grazie, perché mi è piaciuta proprio questa iniezione di fiducia, quasi in attesa, e quindi grazie a Giovanni Tamburi, presidente della TIP Investment Bank, quotata in borsa. Grazie a voi, buona serata e molti auguri a tutti. Grazie ancora, Traffico. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni, ultimo quarto d'ora, oggi la puntata finisce alle 18. E grazie anche a molti ascoltatori che scrivono al 349-238-6666 per fare gli auguri a noi e a tutta la radio, ricambio a nome di tutta la radio. Un tema... Tutta la puntata ha avuto temi positivi, abbiamo l'obbligo però quasi deontologico di occuparci anche di un tema che ha dei risvolti in primo luogo sociali, stiamo parlando del maltempo nella zona del Vicentino di nuovo, ma anche dei risvolti pesantemente economici. Eh sì, è un tema anche economico, perché ricorderete sono state 8.000 purtroppo le imprese tra Vicenza, Padova e Verona coinvolte, danneggiate in alcuni casi in maniera molto molto grave dall'alluvione, 1 miliardo complessivamente di euro i danni per le tre province e ancora più di 500.000 di persone coinvolte. Le forti piogge ve le hanno raccontate anche i nostri GR, ore, giorni che battono in tutta l'area, Venezia, l'acqua alta, 1,5 metri, ma soprattutto a Vicenza, la notte di paura, il ponte degli Angeli che ha visto il livello del fiume Bacchiglione arrivare fino a un massimo di 5,34 metri, pochi centimetri, poche decine di centimetri dal livello di rischio alluvione, chiuso con l'estate del centro, ieri già il governatore Zaia aveva affidato di nuovi poteri di somma urgenza per la gestione dell'emergenza al sindaco di Vicenza, Achille Variati. Ma non c'è solo il Bacchiglione, ha osservato speciale anche il Rotolon, nel comune di Recoaro, attualmente la terza frana più imponente d'Italia, già il nome diciamo non porta bene, però giornata da bollino rosso anche per la protezione civile della provincia di Treviso. Il tecnico l'ha capita adesso la battuta. I fronti di attività sono gli stessi delle giornate del 1° novembre, cioè frani in alcuni centri della fascia pedemontana e ingrossamento del fiume, dei fiumi Piave e Livenza. Allora, un punto lo facciamo con un osservato, un inviato speciale in qualche modo, perché il presidente degli industriali della di Vicenza, mi riferisco all'ingegnere Roberto Zuccato. Buonasera ingegnere. Buonasera dottor Barigioni. 2.100 imprese, una delle province più ricche quanto a export, esportate il 35% e anche purtroppo delle più danneggiate fra le tre da questa alluvione. Allora ci faccia, la usiamo in maniera impropria come nostro corrispondente sul territorio, ci dica qual è la situazione in questo momento. Guardi, fortunatamente la giornata sta evolvendo al meglio. Abbiamo passato una notte di grande tensione. Già ieri sera alle 8:30 il Bacchiglione era arrivato a livelli molto preoccupanti con emergenza e questa notte alle 3 abbiamo avuto un'altra piena che fortunatamente anche quella è rimasta entro i limiti. Qui la situazione è veramente di grandissima tensione emotiva, perché immagini tutti i negozi, i ristoranti, i locali del centro città che rischiavano per l'ennesima volta, proprio sotto anche le feste, di essere sommersi. Erano stati riparati, rimessi in funzione un po' tutti le caldaie, le centrali termiche, elettriche, quindi immagini la tensione spaventosa che c'era ieri. Fortunatamente oggi le previsioni non sono così drammatiche, però rimane sempre una forte tensione, proprio si sente emotivamente che c'è questa preoccupazione. La città non può vivere con questo pericolo costante. È chiaro che ci troviamo di fronte a situazioni nuove di emergenza. Pensi che la settimana scorsa è caduta tantissima neve sulle montagne fino in pianura. Sabato scorso avevamo una temperatura di meno 11, ci troviamo questa settimana, ieri c'erano più 14. Figurarsi. Allora questi sbalzi termici, forti nevicate e la settimana dopo forti precipitazioni fanno sciogliere la neve, le temperature elevate fino a quasi 2000 metri e c'è un eccesso di acqua che arriva in pianura, ma che però sta diventando una normalità, questo ci preoccupa, quindi dobbiamo assolutamente intervenire sui bacini di espansione. Ecco, adesso ci arriviamo, una notizia prima: il governo nel mille proroghe ha tra le altre cose prorogato al 30 giugno la sospensione dei tributi per le zone del Veneto colpite dalle alluvioni, il termine scadeva il 20 dicembre. Per quello che riguarda i finanziamenti promessi, com'è la situazione? Perché il suo vicevescovo 2 settimane fa disse: qua non abbiamo visto ancora nulla. Sta arrivando qualcosa delle compensazioni? No, devo ringraziare intanto il governo, il ministro Zaia, i sindaci e il territorio si sono attivati tutti in maniera assolutamente compatta ed esemplare. La protesta del dottor Vescovi era in quel momento assolutamente motivata. Vabbè, è servita. Sì, ci trovavamo di fronte a un decreto che praticamente non permetteva, chiedeva una lista per poi vedere se si poteva fare qualcosa. Oggi sono arrivati i primi stanziamenti e i comuni hanno già provveduto alle prime distribuzioni. Bene, bene. Veniamo invece a quello che io chiamo il paese con l'Alzheimer, e quindi evitare che il paese abbia l'Alzheimer. Adesso io non vorrei che, superata la brutta stagione, tra un mese e mezzo, si ritornasse ai livelli di prima. Cioè, voglio dire, non è che la provincia di Vicenza o di Verona o di Padova possono vivere costantemente col rischio alluvione. Già ci sono altre province, spesso nel mezzogiorno, che i problemi non li hanno affrontati. Allora, serietà vorrebbe, Presidente Zuccato, che una volta finita l'emergenza, bocce ferme, con i capannoni che hanno riaperto, con l'attività nella vita che torna a essere una vita normale, voi, intesi come industriali, rappresentanti locali, sindaci, provincia, regione, vi metteste con la protezione civile, ci mancherebbe, attorno a un tavolo per evitare che questo possa ricapitare nel futuro. Lei già faceva un accenno ai bacini di espansione. Sì, guardi, noi questi interventi li avevamo in parte finanziati come studio già una quindicina di anni fa. Purtroppo, come spesso succede, ha ricordato lei, in questo paese con l'Alzheimer, poi ci si dimentica e sembra che le emergenze accadano una volta e poi non devono più accadere, quindi è prevalso la politica del dire no, nel mio territorio non si fa, perché diciamoci anche una cosa, dottore, che è abbastanza purtroppo vera, che i sindaci non hanno più introiti, gli unici introiti che hanno sono quelli relativi agli oneri di urbanizzazione. Allora è chiaro che si cerca di andare a recuperare delle risorse dove è possibile, e allora è chiaro che un bacino di espansione prelude all'impossibilità di trasformare quelle zone da agricole ad eventualmente edificabili. Però quando si discute di interessi della collettività, ma in questo caso di sicurezza della collettività, io credo che dobbiamo superare qualsiasi remora e si deve procedere come mi sembra che anche il governatore Zaia abbia fatto intendere in questi giorni. Si va avanti, si va avanti decisi e compatti, perché io credo che questo mutamento meteorologico non sia limitato al momento, ma è una situazione nuova con la quale dovremo convivere nei prossimi anni, perché siamo tutti di questo surriscaldamento, di questa eccessiva energia nell'atmosfera, e quindi dobbiamo prepararci al peggio. Però dobbiamo quindi intervenire immediatamente. Mi raccomando a lei e a tutti gli esponenti della società, e quindi classe politica, imprenditoriale, non mollate il colpo, noi continueremo a seguirvi come abbiamo fatto nei momenti dell'emergenza. Penso che anche i nostri appelli siano serviti in queste settimane, però poi bisogna lavorare sul territorio per evitare che le cose ricapitino, a partire dai bacini di espansione, che sono fondamentali, perché sono quelli che poi permettono di contenere un eccesso di pioggia e di acqua che viene scaricata altrimenti a valle. Grazie, in bocca al lupo e buon Natale. Grazie a voi di Radio 24, perché devo ringraziarvi, perché fin dall'inizio siete stati molto vicini alla situazione, avete capito la disperazione iniziale, ci avete dato spazio, e quindi davvero grazie a lei, dottore, e al direttore, perché avete fatto un grande lavoro per la nostra comunità. Ricambio a nome di tutta la redazione, poi se la sa com'è Zuccato, la passione si sente anche quando è una passione di preoccupazione. In questo caso vicini a voi, devo dire anche vicini a quello che stava capitando in altre aree del paese. Abbiamo avuto il sindaco dell'Aquila ospite 2 giorni fa, non dimentichiamo nessuno per quello che riusciamo a fare. Buon Natale veramente a tutti i vicentini e veronesi, padovani, alluvionati, in bocca al lupo a lei, Presidente Zuccato, e a tutti i suoi associati. Grazie quindi al Presidente della Confindustria di Vicenza, Roberto Zuccato. Grazie, grazie a lei. E in bocca al lupo agli aquilani, a tutti gli italiani che soffrono più di altri, in bocca al lupo e buon Natale. Buon Natale e un ringraziamento come sempre anche a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Noi ci risentiamo, Focus Economia torna da lunedì prossimo, noi invece ci risentiamo per la puntata speciale del 31 dicembre. Nel frattempo, veramente, auguri di cuore da parte di Sebastiano Barisoni. Radio 24, la passione si sente.